Se il fascismo più si consolidi e si espanda, ben è capace di creare in Europa, e forse al di là, una condizione di guerra permanente e di creare una divisione non pur di classi, ma di stirpi, l'una esigua di dominatori, l'altra sterminata di soggetti, una classe di padroni e una di servi. Volente o no, il fascismo è la guerra in agguato perpetuo. Combattere, distruggere il fascismo e lavorare per la pace dei popoli. Questo ha scritto Filippo Turati nel 28. Lo stesso Turati, prima del suo espatrio clandestino nel 27, aveva lottato come membro dirigente del Partito Socialista Unitario contro il fascismo, ma nessuna delle sue dichiarazioni pubbliche, dei suoi articoli, discorsi parlamentari, delle sue lettere private, rassomiglia nemmeno da lontano a questo stato d'animo apocalittico che trova espressione nel passo sopra citato. Il Turato del 22 al 30, al 25 e quello del 28 sembrano essere diversi personaggi, sembrano essere diversi mondi. E questo discorso su Turati potrebbe essere fatto anche per molti altri politici italiani di questo periodo. Se si studia la crisi dei sistemi democratici, si rimane colpiti dalla, cito, limitata visuale che hanno nel processo in corso anche i personaggi di primo piano. Chi agisce è cieco, dice Goethe. Questo detto appare anche più vero in un momento di sconvolgimento politico e sociale, dove tutte le norme, i criteri e le proporzioni sembrano essere in balia ad un futuro sconosciuto ed incerto, e dove classi, gruppi di interesse, istituzioni, sindacati e partiti politici non agiscono come ci aspetteremmo dato l'atteggiamento dei loro membri, le loro ideologie e le precedenti tradizioni di comportamento. La recente storiografia ha dato giustamente grande rilievo al fatto che nemmeno i protagonisti di questa crisi politica, i fascisti stessi, avessero un'idea chiara di dove doveva portarli la presa del potere. Cito un passo di Renzo De Felice: gli stessi fascisti non avevano del proprio movimento un'idea precisa che andasse oltre una somma di negazioni e di confuse aspirazioni di rinnovamento. Se si vede per esempio i primi interpretazioni del fascismo del 21, 22, 23, si vedono espressioni come le seguenti: il fascismo si vuoterà come un otre rovesciato, per esempio, o il fascismo va verso il tramonto. La sola cosa che può dirsi serenamente intorno al fascismo è che nella sua forma presente esso non potrà durare. Questa era l'opinione, lo spirito prevalente dell'opinione pubblica degli anni 21 in poi. La stessa osservazione vale in gran parte anche per le opposizioni, da quella cattolica fino a quella liberale, democratica o comunista. Non hanno visto e non potevano vedere lo svolgimento politico che poi sfociò dopo il 25 nella costituzione dello Stato totalitario fascista. Aver individuato nell'impreparazione spirituale, nelle grandi illusioni, nella cecità degli attori politici, il vero momento, i cardini della crisi, è secondo la mia impressione la più importante scoperta della nuova storiografia storicistica, il cui paladino è uno di questi, è Renzo De Felice. Questa necessità di ricostruire di volta in volta il momento storico fu già vista negli anni 20 e 30. Se si prendono per esempio le lezioni sul fascismo che Palmiro Togliatti tenne nel 35 a Mosca, si vede che lui criticava lo schematismo e il pessimismo rivoluzionario, i quali accettavano e riconoscevano, cito, che il fascismo doveva per forza prendere questa strada che poi prese e non avrebbe avuto alternativa. Cito un passo ora di Togliatti: è un grave errore il credere che il fascismo sia partito dal 20 in poi oppure dalla marcia su Roma, con un piano prestabilito, fissato in precedenza, di regime di dittatura. Di dittatura, quale questo regime si è poi organizzato nel corso di 10 anni e quale noi oggi lo vediamo? Tutti i fatti storici contraddicono una tale concezione. La dittatura fascista è stata spinta ad assumere le forme attuali da fattori obiettivi, da fattori reali, dalla situazione economica e dai movimenti delle masse che da questa situazione vengono determinati. Questa considerazione togliattiana è, secondo De Felice, del massimo interesse, perché anticipa alcune delle affermazioni centrali del suo discorso sul fascismo. Con ragione si è lamentato che nessuno ha notato questa analogia molto importante. Secondo De Felice, il gennaio 25 è stato più importante dell'ottobre 22, perché soltanto allora si decise la sorte del fascismo, che dal gennaio 25 in poi si trasformò in regime. Non si può dire, dice De Felice, che con l'ottobre 22 la maggioranza del paese e delle stesse forze politiche acquistassero ancora veramente coscienza del vero significato dell'affermazione fascista. E, soprattutto, appare oggi sempre più evidente che questa affermazione non era ancora definitiva e che la situazione italiana era ancora potenzialmente aperta ad altri sbocchi che non fossero quello, tutt'altro che fatale, della trasformazione del governo Mussolini in regime fascista. Vorrei oggi considerare il problema della storicizzazione del fascismo da un punto di vista particolare, applicando un metodo di ricerca che nella Germania, dove negli ultimi 20 anni è fiorita tutta una scuola intorno a tale tipo di ricerche, si chiama Begriffsgeschichte, cioè storia dei concetti. Esiste in Germania, per esempio, una scuola che da qualche anno fa ha incominciato anche un grande dizionario di più di 5-6 volumi, Wörterbuch der historischen Grundbegriffe, edito da Werner Conte e Reinhard Koselle, che è una scuola concentrata a Heidelberg, ora anche a Bielefeld, che è molto importante, diciamo, studiare questi concetti come libertà, come democrazia, come per esempio anche quello del totalitarismo, vedere come sono nati questi concetti, che danno anche la storia di questi concetti da certi possibilità di comprendere il vero svolgimento della storia reale. A me interessa sapere come è nato nel campo del pensiero politico-sociale il concetto dello Stato totalitario, del totalitarismo. Do per ipotesi che nello sviluppo di quel concetto si dovrebbe trovare anche un riflesso della storia reale e del modo di interpretare questa realtà, termine che diventa il perno e la cristallizzazione del cambiamento politico che avvenne in Italia dopo il 22. Questo cambiamento è stato anche recentemente descritto con il termine di rivoluzione, usato non in senso marxistico per un cambiamento delle strutture socio-economiche, ma per un cambiamento del sistema politico e della classe politica. Per esempio, lei vede per esempio quel dibattito acceso intorno a quel libro di De Felice, Intervista sul fascismo, la discussione intorno a questo concetto di rivoluzione o no è stato molto importante. Lo storico inglese Adrian Littleton, per esempio, dice nel suo libro pubblicato in versione italiana nel 74, dalla Terza, La conquista del potere, e cito un passo, che la presa di Mussolini sulla società italiana non fu così solida né la sua influenza così capillare come nel caso di un Hitler o di uno Stalin. Il fascismo lasciò zone enormi della vita italiana praticamente intatte. E tuttavia sarebbe a mio giudizio sbagliato pensare che il fascismo non abbia segnato una rottura netta nella storia d'Italia. In una società in via di modernizzazione, mutamenti di vasta portata nei metodi di esercizio del potere politico non potevano mancare di avere ripercussioni sulla vita economica, sociale ed intellettuale. Perciò Littleton usa nella sua indagine come concetto fondamentale quello del totalitarismo. Di rottura netta con carattere rivoluzionario ha parlato quasi tutta la storiografia, ad eccezione di quella comunista. Basta pensare a quel dibattito. La scienza politica ha descritto la sostituzione del sistema parlamentare pluralistico con una dittatura unipartitica mediante il concetto di Stato totalitario. Questo concetto da dove viene e da quando è stato usato? Si afferma quasi all'unanimità che fu Mussolini ad inventare la parola. Cito, il concetto del totalitario venne per la prima volta usato da Mussolini per il regime fascista in Italia e per la sua dinamica rivoluzionaria. Così scrive per esempio il dizionario Brockhaus nell'ultima edizione del 69-70. Se lei vede per esempio la più importante Encyclopedia delle Scienze Sociali, The Encyclopedia of Social Sciences, c'è un articolo di Spiro che dice la stessa cosa. O se lei prende per esempio il grande dizionario tedesco, Sowjetsystem und Demokratische Gesellschaft, grande opera degli anni 60, ora anche tradotto in inglese, c'è un articolo di Shapiro che anche lui dice questo concetto è stato inventato da Mussolini. Se si sfoglia l'opera omnia di Mussolini, si incontra la parola totalitaria per la prima volta in un discorso che lui tiene il 22 giugno 25 alla chiusura del quarto congresso nazionale del Partito Nazionale Fascista. Con la parola dell'ordine, tutto il potere a tutto il fascismo, Mussolini proclamava, ora cito un passo di Mussolini, vogliamo che gli italiani scelgano, abbiamo portato la lotta sopra un terreno così netto che ormai bisogna essere o di qua o di là, non solo, ma quella meta che viene definita la nostra feroce volontà totalitaria, sarà perseguita con ancora maggiore ferocia. Vogliamo insomma fascistizzare la nazione tanto che domani italiano e fascista siano la stessa cosa. Pochi mesi più tardi, il segretario del partito Roberto Farinacci parlava del programma totalitario della nostra rivoluzione. Negli stessi mesi, Mussolini coniava, per l'etatismo potenziato, la formula tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Due anni dopo, nel 27, egli diceva, cito, l'opposizione è stolta, superflua in un regime totalitario come è il regime fascista. Regime totalitario. Nella dottrina del fascismo Mussolini poi scriveva, cito, per il fascista tutto è nello Stato e nulla di umano o spirituale esiste e tantomeno ha valore fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario e lo Stato fascista, sintesi ed unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. Intorno al concetto dello Stato totalitario cominciava a fiorire tutta una letteratura giuridica e politico-storica, ma anche l'antifascismo cominciava a fare uso di questa parola. Così per esempio Gramsci, il congresso del Partito Comunista a Lione, nel gennaio del 26, cioè mezz'anno dopo quel discorso mussoliniano, affermò che, cito, dato il sistema totalitario che il fascismo tende ad instaurare, sarà nel seno stesso del fascismo che tenderanno a risorgere i conflitti che non si possono manifestare per altre vie. Alla fine degli anni 20 la parola totalitarian cominciava ad apparire nei paesi anglosassoni per caratterizzare certi aspetti particolari e del bolscevismo e del fascismo. Nel 31 Carl Schmitt introduceva il concetto Totalstaat o der Totalstaat nel linguaggio politico della Germania. Quando Hitler arrivò al potere, nei paesi della democrazia liberale dell'Europa occidentale si intensificò l'impressione che con il fascismo, il bolscevismo e il nazionalsocialismo fosse nato un nuovo concetto di Stato e di società, e questo sarebbe stato il più importante fenomeno politico del XX secolo. Nacque la scienza dello Stato totalitario, del totalitarismo, della cui travagliata storia non dobbiamo occuparci in questa sede. Non possiamo nemmeno occuparci della questione molto discussa se il regime fascista sia stato un regime totalitario o no. È nota la tesi di Hannah Arendt che Mussolini avrebbe coniato il concetto dello Stato totalitario, ma non sarebbe riuscito ad applicarlo all'Italia fascista. Alberto Acquarone ha scritto un grosso volume sull'organizzazione dello Stato totalitario per provare, e cito, che sotto il fascismo lo Stato totalitario, come integrazione senza residui della società nello Stato, non riuscì mai ad essere tale. Dello stesso parere è Renzo De Felice, che chiama il regime fascista in sostanza, e cito, il vecchio regime tradizionale, sia pure in camicia nera e con tutta una serie di trasformazioni in senso autoritario, i quali non sarebbero stati a lungo sufficienti a caratterizzarlo come un vero totalitarismo. Per trattare questa questione e in generale per indagare su tutta la fortuna, o meglio la sfortuna, del concetto del totalitarismo in Italia, prima e dopo il 45, dovremmo fare tutto un altro discorso. Qui ci interessa soltanto la nascita di tale parola e di tale concetto. Vorrei provare che non è stato Mussolini e nemmeno qualche corrente fascista ad usare per primo tale parola, ma che la sua origine si trovate cercare nell'ambito dell'opposizione antifascista, liberale, democratica e socialista, cioè in quelle parti della società italiana dove la distruzione del sistema pluralistico e dello Stato di diritto veniva sentito più profondamente. Penso per esempio alla grande stampa liberale, al giornale La Stampa con Luigi Salvatorelli o al Corriere della Sera con Luigi Albertini, al Secolo con Guglielmo Ferrero, ma anche ad una rivista come Rivoluzione Liberale di Piero Gobetti e Augusto Monti, o alla Critica Sociale sotto la guida intellettuale di Giacomo Matteotti, Filippo Turati o Ugo Guido Mandolfo. Sul campo dei partiti si dovrebbe indagare sull'opera dell'Unione Nazionale di Giovanni Amendola, di quel primo moderno partito liberale, o sui Cattolici Democratici intorno a Storzo, Donati, Giordani e tanti altri. La netta tendenza del primo fascismo al dominio della scena politica, il suo dichiarato antipluralismo, è stato avvertito già negli anni 20 e 21 da osservatori attenti. Sulla Stampa di Torino scriveva per esempio Luigi Salvatorelli, alla fine del 21, che il fascismo agrario in certe parti della Valle Padana era sul punto di creare, cito, l'antistato contro tutti i propri avversari. Qui il fascismo si è sostituito allo Stato ed ha stabilito la propria dittatura, schiacciando gli avversari, cui è negato qualunque diritto politico e civile, e perfino quello di vivere. Questo è un articolo del novembre 21. Questa illiberalità trovava la sua espressione nel campo della politica, nell'azione illegale e violenta. Dopo lo sciopero legalitario dell'agosto 22, Salvatorelli parlava del dilemma del legalitarismo o dell'insurrezionalismo. Il fascismo aveva apertamente scelto l'illegalità, sostituendosi sistematicamente e dichiaratamente allo Stato. Cito, esso si considera non come un partito in lotta contro un altro partito, entro i termini dello Stato, ma come un esercito che conquista sopra un altro esercito un territorio considerato res nullius. Negli avvenimenti dell'ottobre 22, Salvatorelli vide l'instaurazione di una dittatura con offesa fatta alla libertà e alla legge, ma si augurava che, cito, attraverso il disordine si riesca finalmente all'ordine, attraverso la dittatura alla libertà. Ma già due mesi dopo, Salvatorelli denunciava la dittatura di parte, cito, Dicemmo fin dal principio che ci pareva trattarsi non di un episodio rivoluzionario già chiuso, ma di una vera rivoluzione sboccante in una dittatura. Negli ultimi avvenimenti egli vide, senza possibilità di dubbi e discussioni, la volontà del nuovo governo di respingere qualsiasi collaborazione politica, diretta o indiretta, da parte di elementi non fascisti. Il nuovo governo si decide per la dittatura di parte e intende che nessuna attività politica si svolga presentemente in Italia all'infuori del fascismo. Questo è un articolo della Stampa del dicembre 22. Si potevano già vedere delineati sin da questo momento i primi contorni di una futura stabilizzazione politica. Il pensiero teorico del fascismo è tuttora estremamente incerto e nebuloso, scrisse Salvatorelli nel febbraio del 23, ma dietro tutti i verbalismi teorici e confusionari vide, e cito, vide un pensiero fondamentale. Lo Stato fascista non ammette opposizione politica attiva. Il fascismo nega quella libertà della lotta politica che costituisce per l'appunto il principio fondamentale del liberismo dello Stato liberale. L'avvicinamento e la fusione tra fascismo e nazionalismo, Salvatorelli li vide sotto il segno dello Stato assolutista e dell'assolutismo statale. Cito, mentre lo Stato assolutistico metternichiano era lo Stato ordine del legittimismo monarchico, quello assolutistico odierno è lo Stato forza del nazionalismo demagogico. Quello vecchio si contentava di imporre una certa soggezione esteriore, quello nuovo pretende la soggezione delle coscienze ai dogmi fluidi delle demagogie mutevoli ed irresponsabili. Quello è un articolo del 2 gennaio 23. Salvatorelli già agli inizi del 23 non vide nel fascismo un fenomeno provvisorio e transitorio, ma una dura e consistente realtà che doveva determinare per un lungo periodo la politica italiana, prima che dopo la neve invernale potessero crescere i germi della immancabile primavera futura. Così scrisse nel 13 febbraio 23. Un fascismo, secondo Salvatorelli, un fenomeno, secondo Salvatorelli, che si muoveva per forza propria e secondo una sua logica interna. Abbiamo troppo il senso storico, così scrisse il 2 gennaio 23, per non comprendere le ragioni d'essere del presente e per sognarci minimamente di contrastare a chi nel presente domina il godimento della sua ora e il compimento dell'opera sua. Ma per conto nostro preferiamo protendere lo sguardo e l'anima, ansiosi ma fiduciosi, verso il futuro. Cioè qui si vede, e direi che Salvatorelli forse è stato l'uomo più, il conoscitore più intento, più veritiero del fenomeno fascista in quel momento, l'interpretazione del fascismo già con un profondo pessimismo, ma usando, come ha fatto Salvatorelli, non un nuovo concetto di Stato, ma usando quel vecchio concetto di tirannide, di assolutismo e di dittatura, cioè questi tre concetti vecchi della dottrina di Stato aristotelica, platonica, che in questo momento sono per Salvatorelli più nuovamente attuale. Un altro tipo di opposizione nel nome di un liberalismo ideale spietatamente intransigente fu quello condotto negli stessi mesi ed anni dal giovane Pietro Gobetti dalle colonne della sua rivista Rivoluzione Liberale. Di Gobetti, del quale dopodomani noi abbiamo il 50° anniversario della sua morte. Gobetti commentava gli avvenimenti di fine ottobre 22 in un articolo intitolato La tirannide. Nel suo stato di profondo, quasi biblico pessimismo e di disperazione eroica, Gobetti vide nel fascismo l'autobiografia della nazione e l'incarnazione di tutti i vecchi mali della storia italiana, aspettando un lungo periodo di dominio dittatoriale. Egli combatté Mussolini come corruttore prima che come tiranno, il fascismo come tutela paterna prima che come dittatura. Quel disperato sacerdote dell'intransigenza, come egli stesso si definì, aveva paradossalmente, nonostante la sua tenace opposizione, una certa speranza che il fascismo, come una forte dose di veleno, potesse alla lunga guarire il corpo italiano dalle sue malattie persistenti e insidiose. Cito: «Sappiamo e ci auguriamo che Mussolini non cada troppo presto, che la sua esperienza percorra tutta la sua parabola, si compia in tutta la sua logica di intransigenza. Questa disperata speranza in un tiranno serio ha trovato espressione nei suoi famosi articoli della rivoluzione liberale di questi mesi, per esempio nell'articolo Elogio della ghigliottina o Elogio di Farinacci. La sua era una opposizione di stile, di dignità, dove non si trattava più di salvare il paese, opera non più realizzabile sotto le condizioni imperanti, ma di salvare la propria anima e di salvare il futuro». Da una tale posizione di intransigenza morale, non potevano essere scoperti i nuovi lineamenti del nascente nuovo ordo del regime fascista. Ma quando passo per passo l'involuzione del sistema parlamentare diventava più accentuata e il dominio di fazione più marcato, Gobetti si vide costretto a rinunciare alla sua intransigenza morale e si avvicinò ai gruppi di opposizione in lizza. Occupandosi delle elezioni parlamentari nella primavera del 24, Gobetti parlò, e questa è la prima volta che lui usa la parola, parlò dei piani governativi che puntavano sul gioco totalitario della demagogia fascista. E questo è l'aprile 24. Gobetti ancora in questo momento non credeva Mussolini capace di diventare tiranno sul serio, perciò restavano, e anche questa è una citazione, sogni totalitari tutti i propositi del fascismo estremista. Lo svolgimento delle elezioni dell'aprile 24 diedero a Gobetti una lezione. Egli vide che il paragone fra i macchieri guggiolettiani e gli squadristi fascisti non coglieva tutta la realtà e che la prova sperimentale dei sistemi totalitari, anche questo è un articolo di Gobetti, rivelavano una nuova realtà in Fieri. Poi cominciò l'esperienza pratica politica gobettiana, cominciò la formulazione di una politica di alleanza che dopo l'assassinio di Matteotti faceva della rivoluzione liberale una delle ispiratrici della politica aventiana. Un'opposizione più costituzionale, ispirata ad una stretta osservanza della legalità, fu condotta dal gruppo liberale democratico, capeggiato da Francesco Saverio Nitti, e dopo il suo ritiro dalla vita politica agli inizi del 23, dal suo successore Giovanni Amendola, che dal 24 in poi doveva divenire capo indiscusso dei partiti aventiniani. Anche Amendola vide negli avvenimenti dell'ottobre 22 potenzialmente, cito, l'inizio di una dittatura sorta dalla piazza, ma diversamente, per esempio, da Salvatorelli, aveva ancora molte speranze ed illusioni su un possibile ritorno del partito dominante, come il fascismo presto venne chiamato, nell'arco della legalità e della Costituzione. Dalla primavera del 23 in poi, Amendola denunciava con crescente intensità la tendenza ad una identificazione fatta propria da certe correnti del fascismo fra partito e Stato, simboleggiato dal concetto di regime. Egli attaccava il tentativo di dividere i cittadini italiani in due caste, una inferiore e una privilegiata, a creare un solco per volontà del fascismo tra governo fascista e tutti i partiti costituzionali, e a costituire una massa di cittadini italiani non ancora legalmente privata dei diritti politici e un'altra che comprende una minoranza di eletti alla quale compete il diritto esclusivo di comandare su tutto il resto della popolazione, di imporre la volontà di una casta di padroni ad un popolo di servi. Questo è un articolo dell'aprile 23. Amendola scrisse che il fascismo avrebbe dovuto cessare, cito, di considerarsi un esercito politico in armi accampato in un paese che deve essere convinto con la ragione o con la forza ad accettare di vivere in soggezione. L'opposizione che il fascismo ha mosso e muove con spietata intransigenza a tutti gli altri partiti finisce per assomigliare ad una opposizione alla maggioranza del paese. Nessun partito fa opposizione al fascismo, ma il fascismo fa opposizione a tutte le forze che non si curvano a lui. Quello spirito di sopraffazione e di tenace egoismo di partito, nella esperienza pratica del fascismo, Amendola lo vide realizzato specialmente nella politica comunale e provinciale, dove nel 23 si delineava la manomissione generale di tutte le amministrazioni locali. Il fascismo raggiunse le sue mete o con l'occupazione violenta dei municipi e le demissioni forzate degli amministratori, o con l'imposizione minacciosa delle dimissioni fatta a mezzo del commissario prefettizio e la convocazione di nuove elezioni. Nelle elezioni amministrative la lista di maggioranza e quella di minoranza venivano presentate dal partito dominante, che prima con la forza o con l'insinuazione aveva impedito la formazione di una lista di opposizione. Questo modo di procedere fu chiamato da Amendola in un articolo del 12 maggio 23 sistema totalitario, cioè, cito, promessa del dominio assoluto e dello spadroneggiamento completo ed incontrollato nel campo della vita politica ed amministrativa. Questo è in assoluto il primo esempio dove questa parola viene usata. E questa è la prima volta che ho trovato l'impiego di questa parola, e a me pare rimarchevole che la parola totalitario sia usata qui in senso quasi tecnico, indicando un nuovo sistema elettorale in sostituzione di quello maggioritario e minoritario. Ma nello stesso momento la parola punta sulla negazione del principio base di ogni democrazia, sul mancato rispetto per la decisione di maggioranza, che include anche il rispetto per i diritti di minoranza, che resta tale nella speranza di diventare maggioranza in un altro giorno. In un articolo del 28 giugno 23, Amendola applicava questa sua interpretazione anche alla discussione sulla nuova legge elettorale, la cosiddetta legge Acerbo, che in quei giorni venne discussa nel Parlamento, e attaccava il tentativo fascista di fare di Cavour l'ispiratore divino della riforma elettorale fascista e del sistema totalitario. È un'altra citazione. Attaccava l'immagine, cito, di un Cavour plasmatore elettorale di un gregge di ascari totalitari. Cavour, rispettando i principi della democrazia liberale, non avrebbe mai voluto cambiare il sistema di formazione di volontà dal basso con un altro della formazione dall'alto. La ricorrenza dei giorni della marcia su Roma nell'ottobre 23 dava occasione ad Amendola di tentare un primo bilancio dell'esperienza vissuta in quei mesi. Cito, veramente la caratteristica più saliente del moto fascista rimarrà, per coloro che lo studieranno in futuro, lo spirito totalitario, il quale non consente all'avvenire di avere albe che non saranno salutate col gesto romano, come non consente al presente di nutrire anime che non siano piegate nella confessione credo. Questa singolare guerra di religione, che da oltre un anno imperversa in Italia, non vi offre una sede, ma in compenso vi nega il diritto di avere una coscienza, la vostra e non l'altrui, e vi preclude con una plombea ipoteca l'avvenire. Lo spirito totalitario del fascismo diventa quasi la bussola che dirige la sua esperienza e il suo sviluppo. Fu in relazione alla prassi delle elezioni, terno della legittimità del potere, che dalla fine del 23 in poi, nell'ambito delle opposizioni costituzionali, si allargò l'uso della parola. Così Augusto Monti scrisse nel gennaio 24 nella Rivoluzione Liberale, cito, dopo il colpo di mano su Roma, il fascismo si accinge a fare ora in modo definitivo, tentando, dopo le elezioni totalitarie nei comuni e nelle province, l'elezione totalitaria per la Camera dei Deputati. Nella stessa rivista, Luigi Sturzo denunciò, cito, lo spirito di dittatura che oggi pervade l'Italia e descrisse la nuova concezione fascista di Stato-partito tendente, cito, alla trasformazione totalitaria di ogni e qualsiasi forza morale, culturale, politica e religiosa. Nel maggio 24 il Popolo, organo della sinistra del Partito Popolare, paragonò l'esperienza elettorale a quella plebiscitaria della Francia sotto Napoleone III e parlò delle sagre ed elezioni totalitarie. Il 10 maggio 24, sullo stesso giornale, Gino Giordani scrisse dell'anima totalitaria del fascismo che con i suoi quadri dell'occupazione totalitaria si accingeva a dominare l'Italia. Vide il fascismo caratterizzato dal suo spirito totalitario, spirito di violenza, di amoralità, di legalismo e di sopraffazione. Potrei continuare questa enumerazione. Sta di fatto che nella primavera del 24, in connessione con le elezioni parlamentari, si diffuse l'uso del termine totalitario. Commentando la discussione sviluppatasi all'interno del fascismo fra revisionisti ed estremisti sulla forma futura del regime fascista, Amendola lottava disperatamente contro la teoria dello Stato-partito, contro l'identificazione del partito dominante con lo Stato, e si rammaricava che persino nel linguaggio politico cambiasse il significato delle parole, cito, onde gli oppositori sono diventati nemici, che come nemici vanno trattati. Secondo certa stampa fascista, gli avversari del governo dovrebbero essere dichiarati fuori di ogni garanzia di legge. I frenetici sforzi del fascismo per rafforzare l'esecutivo e l'autorità dello Stato parevano ad Amendola che aumentassero la crisi dell'autorità. La via d'uscita da questa crisi era per Amendola non l'annullamento dei partiti, ma la loro stabilizzazione. Cito, il principio essenziale della vita di uno Stato moderno era per Amendola la libera competizione delle diverse forze della società, raggruppate in partiti. Cito, ora il fascismo ha negato questo principio. Non ha voluto essere un partito al governo, ma un governo di partito. Posta questa premessa, tutti i suoi atti erano necessari e conseguenti, dall'accentramento amministrativo al dogmatismo scolastico, dalla riforma elettorale alla negazione della funzione dell'opposizione costituzionale, dalla teoria del potere ad ogni costo alla pratica dell'illegalismo. Il giorno in cui nella coscienza pubblica si sarà diffuso il terrore del governo, quel giorno sarà per tutti verità inconfutabile che più non c'è in Italia autorità dello Stato. Quel giorno venne con l'uccisione di Matteotti, che da un lato mise in luce e da qui i contrasti, dall'altro costrinse il fascismo ad una politica di costituzionalizzazione e di compromessi che poteva sembrare l'alba di un ritorno alla vecchia legalità. È interessante notare che anche sul piano semantico i mesi da giugno fino a dicembre 24 sembrano essere caratterizzati da una battuta d'arresto. La parola totalitaria sparisce dal vocabolario dell'opposizione. La questione morale veniva combattuta sul piano etico, non più su quello del nascente nuovo ordine statale. È più che indicativo che la parola riappaia alla fine del dicembre 24, quando ormai i contrasti si erano acuiti fino al punto di rottura. Nel numero del 2 gennaio 25, la Rivoluzione Liberale pubblicava un articolo di un giovane socialista, Lelio Basso, intitolato L'antistato, nel quale questo amico di Pietro Nenni e di Carlo Rosselli respingeva l'interpretazione gobettiana di considerare il giolittismo, cito, come un fascismo in tono minore. Altrettanto fuori luogo si apparvero i tentativi disperati di invocare l'intervento imparziale e la giustizia di uno Stato che da parecchio tempo era usurpato e diventato Stato fascista. Cito, lo Stato fascista non si limita a tutelare l'ordine costituito con un ordinamento giuridico all'uopo adatto e nell'ambito del quale sia concesso alle forze contrarie di preparare il terreno per una nuova forma di convivenza sociale. Esso rappresenta l'universo popolo, esclude che possa esservi un movimento a sé, contrario o comunque diverso, e se qualcuno pur timidamente si mostra, tenta di distruggerlo irrimediabilmente. Il fascismo ha così posto tutti i suoi principi: soppressione di ogni contrasto per il bene superiore della nazione, identificata con lo Stato, il quale si identifica a sua volta con gli uomini che detengono il potere, cioè Stato fascista. Questo Stato è il Verbo, il suo capo è l'uomo mandato da Dio per salvare l'Italia. Esso rappresenta l'assoluto, l'infallibile. Una volta posti questi principi, lo Stato può tutto. Ogni opposizione al fascismo è veramente tradimento della nazione, ogni delitto fascista si giustifica fine nazionale. Qui si delineava per l'autore un nuovo ordo. Cito: tutti gli organi statuali, la corona, il Parlamento, la magistratura, che nella teoria tradizionale incarnano i tre poteri e la forza armata che ne attua la volontà, diventano strumenti di uno solo partito che si fa interprete dell'unanime volere del totalitarismo indistinto. Qui per la prima volta, da quanto mi risulta, apparve la parola totalitarismo in forma di sostantivo. L'idea della realtà avanzava pari passo con la realtà stessa. La crisi dello Stato, scrisse Basso, ha toccato il suo estremo. Essa deve risolversi o precipitare. E più avanti, Mussolini è stato incoerente quando ha cercato di allontanare dal fascismo la colpa dell'assassinio di Matteotti, perché rinnegava le ragioni ideali del movimento fascista. Quasi nello stesso momento, Mussolini, nel suo famoso discorso del 3 gennaio 25, assunse, e cito, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Fu la seconda e questa volta definitiva presa del potere che nell'arco di 2 anni rasa al suolo i resti del sistema liberale democratico pluralistico. Dati i metodi di repressione della stampa adoperati dal fascismo, che per evitare il pericolo di sequestro forzavano gli organi di opposizione a penose forme di autocensura, questa marcia del fascismo trionfante non poté essere più interpretata liberamente da parte delle opposizioni. Per esempio, se lei legge per esempio la rivoluzione liberale dopo gennaio 25, su temi politici è quasi niente più. È cercato di evadere la repressione trattando temi culturali, non, su temi politici è quasi totalmente anodino. Ma restava la parola parlata. Di quella abbiamo una testimonianza preziosa nel discorso che Amendola tenne il 15 giugno 25 alla chiusura del primo ed ultimo congresso dell'Unione Nazionale. Qui il leader liberale caratterizzava il fascismo con la sua feroce intransigenza e, cito, la sua ansiosa volontà totalitaria. Il fascismo non ha mai ammesso una collaborazione politica, non ha mai consentito di poter condividere la responsabilità della direzione politica dello Stato e di potere e di poter attenuare le sue vedute integrali sulla politica italiana. Con la politica applicata dopo il discorso mussoliniano del 3 gennaio 25, cito, l'avversario ha dovuto svelarsi. Sappiamo cosa vuole ed abbiamo così la proclamata teorizzazione della definitiva presa di possesso del potere. Amendola in questo momento allargava la metafora militare già usata nel 23, paragonando il fascismo ad un, cito, grande esercito che ha conquistato l'Italia ed ha manomesso tutto lo Stato e si serve di tutti i poteri dello Stato e inoltre della violenza privata da tenere in soggezione e in servitù gli italiani. Un mese dopo, pochi giorni prima di essere selvaggiamente aggredito e bastonato, un fatto che poi lo condusse alla morte, Amendola scrisse l'introduzione agli atti del Congresso della Unione Nazionale. Qui parlava di un tentativo, cito, in grande stile di un rovesciamento totale delle basi su cui era fondata da oltre un secolo la vita pubblica delle nazioni europee. Amendola vide due ordini di pensiero, due opposte ispirazioni politiche, che però negano entrambi lo Stato liberale democratico e mirano concordemente a sovvertire le fondamenta, oramai più che secolari, della vita politica moderna, cioè comunismo e fascismo, che egli chiamava totalitaria reazione al liberalismo e alla democrazia. Cito: il fascismo, nonostante il suo carattere reazionario, obbedisce tuttavia al dogma nato col giacobinismo dello Stato leviatano. Il fascismo rappresenta soprattutto l'esagerazione parossistica e monomaniaca dell'ingerenza del potere esecutivo in tutta la vita statale e sociale, il capovolgimento acrobatico dei rapporti normali tra Stato e società, in virtù del quale la società esiste per lo Stato e lo Stato per il governo e il governo per il partito. Nel momento della sconfitta, l'interpretazione del fascismo si colorava di quegli aspetti metapolitici e apocalittici che abbiamo già incontrato nel citato passo di Filippo Turati del 28. E l'impressione di trovarsi di fronte ad un fenomeno politico assolutamente nuovo si cristallizzava nel concetto di totalitarismo. Una settimana dopo che Amendola aveva caratterizzato il fascismo come terribile malattia del mondo moderno, il quale con la sua ansiosa volontà totalitaria minacciava di capovolgere le fondamenta della società moderna, Mussolini riprese la parola nel passo sopracitato, parlando della nostra feroce volontà totalitaria di fascistizzare la nazione al 100%. Potrebbe essere una citazione diretta del discorso amendoliano. Certamente il punto d'incrocio, il momento dove il concetto di totalitario come espressione della tenace volontà di opposizione liberale democratica antifascista veniva usurpato dal fascismo stesso. Tirando le somme, mi pare certo che le parole e i concetti di totalitario e totalitarismo non fossero coniati da Mussolini e non nascessero nemmeno nell'ambito del fascismo intransigente. Fu l'ultimo atto di un processo di chiarificazione intellettuale e di una presa di coscienza con la quale l'opposizione liberale democratica e cattolica si rendeva conto della realtà in fieri e del telos della nascente dittatura fascista. Si trattava di una concettualizzazione nata nell'ambito dell'opposizione aventiana che sulla scia della vecchia dottrina aristotelica dei sistemi politici intendeva chiarire il tipo di regime politico e la struttura e la forma di gestione del potere. Nella storia dei concetti appare come il rinnovamento di una vecchia esperienza, cioè che l'essenza di un nuovo fenomeno politico non si chiarisce nell'autointerpretazione, ma dal di fuori. Cito: Mussolini può essere un eccellente Ignazio di Loyola, così scrisse Piero Gobetti nel novembre 23 della Rivoluzione Liberale, dove c'è un demestre che sappia dare una dottrina, un'intransigenza alla sua spada. Un anno più tardi Gobetti rispose a questa domanda e cito: se a noi ostinati nemici della prima ora sono riconosciuti legittimi diritti di paternità verso il fascismo è perché gli regalammo nella polemica qualche dottrina valida a ricoprire pudicamente la sua vergognosa povertà. Aveva ragione Gobetti. La dottrina dello Stato totalitario come nuova moderna forma della tirannide, dello Stato assolutistico e della dittatura di parte nacque fra coloro che volevano salvare almeno l'ideale e il ricordo del sistema liberal pluralistico e dello Stato di diritto. Resta da aggiungere qualche parola sul significato di questa ricerca concettuale sul campo metodologico e storiografico. Abbiamo già visto, citando i testi di Togliatti e di De Felice, ha visto la tesi che la situazione politica italiana dal 22 in poi, essendo un coacervo di un complesso gioco di forze politiche, era potenzialmente aperta a sbocchi diversi da quello veramente raggiunto. Per citare un'altra voce possibilista, quella di Marcello Soleri, ministro della guerra nel secondo cabinetto Fataxa e intimo amico di Giolitti, quel Soleri ha scritto nelle sue memorie, cito: il fascismo conquistato il potere non ebbe in un primo periodo, che durò dal discorso di Mussolini sul bivacco a quello del gennaio 25, un deciso orientamento, e apparve piuttosto come un metodo di governo più risoluto, rapido ed energico che non come un partito vero e proprio con un suo definito contenuto programmatico. Oscillò anzi per qualche tempo fra democrazia e nazionalismo, solo dimostrandosi sin dall'inizio decisamente antiliberale. Renzo De Felice ha ampiamente commentato questo passo, contendendo in gran parte con i giudizi ivi espressi. Su un'altra sponda si trovano tutte quelle voci che vedono lo sviluppo politico dopo il 22 caratterizzato e determinato da una propria logica e da una propria necessità. Basta citare una annotazione di Gaetano Salvemini del novembre 22. Cito: il fascismo, come è passato dalla fase antibolscevica alla fase antiparlamentare, così deve passare dalla fase antiparlamentare alla fase antidemocratica. È una logica di ferro che lo trasporta. La lotta contro la proporzionale è il primo tentativo per incatenare in qualche modo il suffragio universale. E qualche mese più tardi Togliatti parlava di una corsa verso l'assolutismo e degli sviluppi inesorabili che doveva seguire il fascismo. Cito: il fascismo si propone di schiantare tutti gli ostacoli che incontrerà nella sua via, non ha facoltà di scelta ed è inesorabilmente costretto da una dura ed inviolabile legge di vita a continuare la sua opera di asservimento delle classi operaie e si troverà ben tosto costretto dalla stessa legge a portare a compimento la sua offensiva contro il medio ceto. Tutti i tentativi di resistenza non saranno che inasprire il fascismo e poiché sono inevitabili, i caratteri tirannici dell'attuale regime si accentueranno sempre di più. Ora, libera scelta o seria necessità, la questione è come il fascismo divenne una dittatura. Questo è, come è noto, il titolo di un libro di Massimo Rocca, collaboratore di Mussolini nella fase iniziale dopo il 22, che tentò nel 23, nella sua veste di uno dei leader della corrente revisionistica del fascismo, di legalizzare, di staticizzare il fascismo, inquadrandolo nel cornicione dello Stato liberale. Revisionisti al di qua e fiancheggiatori al di là del fascismo videro, e cito qui Massimo Rocca, videro un nefasto circolo vizioso degli estremismi fascista ed antifascista, intanto accordo da suscitarsi ed esasperarsi a vicenda, e una terrea logica della situazione messa in moto da ogni regime repressivo. L'altro degli estremismi, accanto a quello fascista, non è, come si potrebbe supporre, quello comunista, ma, e cito qui Rocca, l'opposizione aventiniana, ideata formalmente da Amendola, ma dominata in realtà dai socialisti, che era nel suo spirito non meno dittatoriale dei fascisti estremi. Questo rancore contro l'Aventino si trova un po' dappertutto presso i fascisti conservatori e dei fiancheggiatori. Nella loro interpretazione, l'Aventino diviene il complice o addirittura il reo principale della svolta dittatoriale del gennaio 25. Ma quello che loro chiamavano estremismo non era in verità l'intransigenza democratica antitotalitaria dell'Aventino, e questa intransigenza faceva parte integrale del processo di formazione del regime fascista, o rivelava soltanto la vera essenza del fascismo, che senza questa opposizione si sarebbe affermato ancora più presto? La storiografia degli ultimi decenni ha stabilito che sul piano soggettivo, nella classe politica fascista e in Mussolini stesso, non c'erano piani prestabiliti di costruire quello che poi doveva divenire la dittatura monopartitica, cioè il regime fascista. Ma passando a livello oggettivo, date certe premesse e certe caratteristiche del movimento fascista, viene da domandarsi se il risultato, cioè la dittatura, non fosse quasi programmato e se la via attraverso la quale fu raggiunta questa meta dipendesse esclusivamente dalle circostanze e dalle forze in gara. De Felice ha ragione di sottolineare la limitata visuale e le illusioni degli attori politici, ma detto questo, non era impossibile, come provano gli esempi citati di Salvatorelli, Gobetti, Amendola ed altri, di prevedere il processo di segregazione e di inasprimento al quale doveva essere sottoposto il fascismo. Non è un caso che il possibilista De Felice non riferisca nessun esempio di queste voci preveggenti sopra riportate. Non potrebbe essere che la sua interpretazione storicizzi troppo e dissolva lo sviluppo storico in una infinita successione di piccole svolte tattiche e di istantanee? Per rispondere a una tale domanda potrebbe essere utile una indagine concettuale come quella sopra esposta. I Gobetti, Giordani, Amendola, che partendo da una erronea e politicamente dannosa self-fulfilling prophecy, cioè un vaticinio, come si può tradurlo? Una profetizzazione che si auto-adempie, una self-fulfilling prophecy, interpretazione del fenomeno fascista, svilupparono il concetto del totalitario, si rinchiudevano in una visione falsamente apocalittica ed in un irrigidimento dottrinario, o coglievano l'essenza del fascismo. È una questione molto più vasta di quanto ho potuto esporre oggi. Bene, ringraziamo il professor Peters. Mi permetto di dire che l'ho trovata particolarmente lucida, molto istruttiva. Comunque adesso apriamo la discussione, la precisazione, eccetera. Oppure sono rilassato un momento. Ma è duro. Nella mia autorità posso... Tu che devi dire, poi condannarti. Va bene, allora sono le 4:10, ne ho tra un quarto d'ora, non oltre. Tra un quarto d'ora, non oltre, ci rivediamo qua. Se si vuole chiudere, non lo so. Dipende dal professor. Dovrei fare alle 5. Ecco, se alle 5... Abbiamo essendo sabato. No. Essendo sabato, non vorrei qualcuno alle 5 mi desse andare. Ma forse bastano anche 5 minuti di riposo. Facciamo un compromesso, come sempre. Va bene, allora 10 minuti di ritardo. Questo articolo è da qualche parte già uscito? No, non è pubblicato, no, è il primo, una prima stesura, diciamo. Molto bello, molto bello. Per la pubblicazione in queste cose, dalla versione tedesca sì, dalla versione italiana no. Possiamo avanzare la nostra candidatura negli analisi dell'istituto. Sì, si sono analisi. Quest'anno li facciamo. È la prima volta, quindi. E non vengono neanche studiati nel congresso di quelli sul movimento cattolico. Quelli vengono quasi un volume con quello e poi altri. Ah sì, va bene. Se lei lo vuole avere. Se lei mi date qualche scatto che gli posso mandare. La rivoluzione d'Europa si tutto, fu duplice, contemporaneamente fascista e comunista, riferendosi al 17 agosto. Cioè, da qui per trovare i concetti, l'uso della parola rivoluzione, contemporaneamente per fascismo e comunismo, perché sono parole che fatto per riferimento, implicitamente subito dopo il 17, per giustificare in parte questo, per cercare la giustificazione del perché Mussolini giustificasse la guerra contro l'impero centrale, no? In funzione di guerra rivoluzionaria. Questo è sempre come concetto, appunto semantico. La parola rivoluzione, fino a che punto questo è giustificato per il fascismo nella prima fase, secondo lei? Come l'interpretazione di De Felice che prima ci può usare la parola rivoluzionaria? Sì, si è visto anche in questo dibattito del De Feliciano che ci sono due concetti di rivoluzione, uno di quello di capovolgimento delle basi sociali, economico-sociali, che è quel concetto marxista di rivoluzione, e poi C'è quell'altro concetto della scienza sociologica americana, di un cambiamento di sistema politico, di cambiamento di elite politica, e De Felice, diciamo, tutta la scienza politica, anche già negli anni 20, ha usato quell'altro concetto di rivoluzione, dicendo che anche il cambiamento del sistema politico e dell'elite politica dovrebbe essere denominato rivoluzione. E questo, per esempio, se si vede gli avvenimenti in Germania dopo 1933, è un nuovo concetto di rivoluzione che poi nella Germania, come in Italia, ha lasciato intatto la struttura socio-economica della società, ma non di meno è stato un grosso avvenimento politico, come per esempio l'avvento del nazionalsocialismo al potere, che diciamo da un certo punto di vista è tanto importante di nominarlo anche rivoluzione. È una rivoluzione, almeno nel caso del nazionalsocialismo, diciamo, una rivoluzione legalitaria, fatto con mezzi legalitari prima o poi diventando rivoluzionario, è anche una rivoluzione da destra, non da sinistra. Diciamo, c'è una certa interpretazione del concetto di rivoluzione come una cosa buona, una cosa, è un'interpretazione da sinistra, ma c'è anche quell'altra interpretazione, che si è visto benissimo, non so chi ha visto il dibattito, il primo dibattito alla televisione, dove Manacorda anche attaccato quell'uso della parola rivoluzione, dove De Felice ha risposto molto chiaramente: io ho un altro concetto di rivoluzione, se io parlo di rivoluzione è un altro concetto di quello marxista. Così ci dovrebbe, c'è bisogno di distinguere fra due concetti di rivoluzione. Prego. Lei non pensa, ecco, per uscire dal problema puramente terminologico, no? Che dietro questo fatto che che l'uso di questo termine totalitarismo nasce in ambienti della posizione antifascista e anche specialmente in ambienti della posizione liberale, no? Derivi da questo shock che il liberalismo classico avverte di fronte al regime fascista, che pretende di accompagnare l'uomo, come si dice, dalla culla alla tomba, no? Mm-hmm. Ecco. Cioè, e che la radice dell'uso di questo termine sia proprio lì, no? Cioè in questo shock che il liberalismo avverte, in fondo, che esitano dottrine che pretendono, dottrine politiche che pretendono di avere un governo extrapolitico, almeno extrapolitico nel senso liberale, no? Penso questo sulla suggestione di uno scritto di Walter Benjamin del 1933, dove lui fa, a mio giudizio, un discorso abbastanza acuto sul fascismo, pur trattando di una questione estetica, non parlando del problema della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, mm-hmm. Dove Benjamin dice che il fascismo è l'estetizzazione della politica, no? E dice il fascismo riesce nel suo potere perché riesce ad estetizzare la politica, portando la massa di fronte all'immagine di se stessa, cioè la zona oceanica è il momento in cui la massa si vede non come singoli ma come massa, no? E quindi riesce a destituzionare la propria partecipazione politica, poi lui contrappone al contrario il marxismo e la politicizzazione dell'estetica. Cioè, appunto, intuendo questo meccanismo che a me pare abbastanza importante, proprio perché è un meccanismo che sopravvive al fascismo stesso, cioè il problema nella società post-bellica della ricomposizione all'interno del politico di tutte le dimensioni dell'uomo, cioè di una dimensione totale, no? Poi nel dopoguerra magari questo verrà riproposto, no? Come forma dell'integrale, no? Mm-hmm. Oppure in altri sistemi del completo, insomma. C'è questa idea che l'uomo atomizzato e che non sussiste più. Cioè, al di là del problema puramente lessicale, dell'uso del termine totalitarismo, lei ritiene che dietro ci sia un meccanismo di questo tipo o che ci sia un meccanismo diverso? Io non lo so, io non, veramente non lo so. Quel concetto del totalitario certamente è un concetto manicheico, è giusto? Manicheo, un concetto manicheo che diciamo è il perno di questo che poi dopo la seconda guerra mondiale si chiamava l'interpretazione demoniaca del fascismo. E questo sarebbe un altro discorso, perché quel concetto del totalitarismo che è stato, diciamo, inventato in Italia e poi sviluppato anche con l'esempio del fascismo dopo la seconda guerra mondiale non ha avuto qualsiasi successo qui in Italia. È stato un po' divulgato, ma diciamo sul livello scientifico non ha avuto nessun... Però nessun... sul livello politico ha avuto una grossissima fortuna nei discorsi di Pio XII. Pio XII usa sempre questo concetto, rivolto al bolscevismo, ma... Pio XII usa quel concetto del totalitario. Sempre. Ok, si dovrebbe indagare, ma almeno per quanto mi risulta, io ho cercato nei lessici italiani, per esempio nell'Enciclopedia Italiana, manca un articolo sul totalitarismo. Tutti gli altri lessici, soltanto negli ultimi anni, sono introdotti le voci totalitarie. Se viaggio come noi in ritardo, sono rimasti indietro. Per esempio, anche tutti gli importanti lavori anglosassoni e tedeschi, per esempio il libro di Brzezinski o quello di Friedrich o quello anche di Hannah Arendt, soltanto tradotto nel 68-69 da Comunità, e tutti questi libri fondamentali per la scienza del totalitarismo non sono stati introdotti nell'ambito, diciamo, nella discussione culturale italiana. E ci sono stati certi tentativi, per esempio di Lelio Basso, di quel stesso Lelio Basso che ha inventato, diciamo, come primo usato come sostantivo quella parola, di usarlo contro la democrazia cristiana. Lelio Basso ha scritto nel 51 un libro, I due totalitarismi, dove lui paragonava il fascismo al cattolicesimo. Così c'è stato un primo tentativo di usare la potenza polemica, la potenza politica di questo concetto, ma pare che, diciamo, per la fortuna della società italiana, quella convivenza, quella collaborazione antifascista e della resistenza degli anni 43 fino al 45 non ha lasciato spazio per quel processo di demonizzazione che fa parte di quel concetto del totalitarismo, e perciò la società italiana si è risparmiato quel confronto totale che si include in questo concetto. E questo sarebbe un secondo discorso da fare, perché questo concetto ha avuto quella povera fortuna qui in Italia. Ma da dove viene, diciamo, la nascita? Ho ricercato bene, queste sono trovate più diciamo, per caso, che ho fatto io. Prima, come noi abbiamo veduto, è più un concetto tecnico. Sistema totalitario in confronto con quel sistema maggioritario e minoritario, che era il sistema elettorale nel diritto elettorale per i comuni e per le province in Italia. Invece quella legge elettorale del 19, l'introduzione del sistema non maggioritario, ma quella, così ho detto, proporzionale, non è stato introdotto nel sistema elettorale nei comuni, nelle province. Così prima è una parola tecnica, e poi diventa quel spirito totalitario, diventa quella parola più sostantiva, più sostanziale, e come confronto, come opposizione, diciamo, intransigente contro il tentativo del fascismo. Professor? Sì, io vorrei innanzitutto dire che è stato un vero piacere questa sera ascoltare la relazione del professor Petascente, non perché quella di questa mattina fosse meno interessante o importante, ma in quanto più o meno l'avevamo vista già nel lavoro tradotto e pubblicato. Questa sera ci è andati proprio alla radice anche con questa ricerca sul termine lessicale di totalitarismo. Ecco, qui mi permetterei di aggiungere una notazione. È stato messo giustamente in rilievo che il termine nasce più dagli ambienti dell'opposizione prima che dagli ambienti, dalla stessa terminologia usata, vero, dal fascismo. Cioè, in sostanza l'ha usata successivamente, quasi riconoscendo la esattezza del termine usato dall'opposizione. Questo per quanto riguarda il termine, perché per quanto riguarda invece il contenuto di questo totalitarismo, abbiamo ben una precisissima dichiarazione di Mussolini stesso, adesso purtroppo non ricordo gli anni, ma deve essere stato dopo il 25 sicuramente, e lì nel momento in cui afferma che l'esperienza di Roma e l'esperienza di Mosca hanno avuto questo in comune, è proprio la frase di Mussolini, che più o meno largamente si sono mangiati tutti e due gli immortali principi dell'89. Si sono mangiati tutti e due più o meno gli immortali principi dell'89. E allora ho l'impressione che questo termine di totalitarismo, oltre ad avere indubbiamente questo significato tecnico proprio riferito al sistema elettorale, abbia anche un significato estremamente più complesso e di natura spirituale. Di natura spirituale è proprio la negazione, vero, delle libertà della persona umana. E del resto l'affermazione che è nella voce dell'enciclopedia Treccani, è vero che lei l'ha riferita oggi, niente fuori dello Stato, niente contro lo Stato, ma è vero, niente che possa essere indipendente dallo Stato stesso. Cioè, oltre al termine tecnico, ha anche un importantissimo significato proprio di indirizzo, vero, spirituale, come negazione di quelle che sono le libertà della persona umana. E io trovo quanto mai esatto parlare di spirito demoniaco, perché c'è proprio questa concezione del demone che agisce dall'esterno su quella che è la vita della persona e che in questo caso, invece che incarnare una forza metafisica o spiritica, incarna semplicemente la forza dello Stato. Interessantissime osservazioni, ma l'ora è tarda. Per esempio, lei ha ricordato questa annotazione di Lelio Basso che nega la possibilità di uguagliare il sistema giudiziano con il sistema di Mussolini, che è anche un riconoscimento di una adesione a quella che è la tesi che considera il fascismo come una frattura rispetto al liberalismo, non come una continuità del sistema precedente. E se avessimo tempo, interessantissimo sarebbe anche vedere questo giudizio morale e politico su quello che è stata la vicenda dell'Aventino. L'Aventino, lei ha prospettato il problema, ha aiutato, ha in un certo senso creato l'occasione per il passaggio da un governo in cui il fascismo aveva pure una maggioranza anche di violenza eccetera eccetera fino al momento del regime. In sostanza, se dal punto di vista morale l'Aventino è stato un grande risultato per la salvezza delle anime, non per le conseguenze che abbia avuto nella politica italiana, dal punto di vista politico è stato più che altro un elemento che ha spinto il fascismo a diventare regime, ancora più di prima, insomma, ecco il discorso del 3 gennaio del 25. Ma questa questione è che il riconoscimento di questo totalitarismo l'ha avuta anche il fascismo direttamente, questo mi sembrava di una certa importanza metterlo in rilievo, no? L'ha ereditato, anche come coscienza di quello che era. Dal momento che il fascismo ha avuto la coscienza di essere proprio il liberale, come? Antiliberale. Sì, antiliberale, in modo preciso. Prego. Se permette, prima di rispondere al professor Cossini, perché mi riaggancio direttamente quando ha detto il professor Cossini, così il professore, tra i due. L'integrazione, quando dice il professor Corsini, che è quella che riguarda il principio 89, io vorrei ricordare che già nel 1913 Coppola, nel giornale dei nazionalisti, ricordava e affermava che egli era uno di quelli, i nazionalisti, ai quali infatti, gli immortali principi del 89 danno semplicemente la nausea. Per cui questo tema, proprio sono testuali le parole di Coppola. Ora, questo tema dell'essersi mangiati gli immortali principi dell'89 è di diretta derivazione nazionalistica, no? Già, ripeto, precisato dal 10 al 13 nell'interno del nazionalismo. Poi, per quanto riguarda quella sollecitazione del concetto del totalitarismo, che è stata quanto mai interessante, veramente interessante, ecco, e a parte la precisazione semantica del termine, mi è piaciuto veramente che questo senso del totalitarismo emerge nel momento in cui vengono manipolati proprio quegli organismi di autonomia amministrativa che sono i comuni e le province, che rappresentano i primi organismi dell'autogoverno e perciò i primi organismi di democrazia diretta vera e propria. E qui dobbiamo ritenere questa grande sensibilità degli uomini delle correnti liberali, democratiche, socialdemocratiche, socialiste, e l'accortezza nel cogliere cosa è significata proprio la manipolazione di questi enti, le cui conseguenze si sentirono moltissimo anche a livello periferico, con una grande sensibilità proprio nell'interno della popolazione interessata. Ora, in questo recepire quello che è il totalitarismo, sì, a mio avviso, consolida anche la coscienza di quella che è la polemica contro il fascismo di queste forze liberali e democratiche, e una battaglia che è fatta veramente nel senso della salvaguardia, della difesa nel modo più assoluto di quelli che sono gli strumenti della democrazia, il regime parlamentare e il pluralismo partitico. Mi pare che questa sia l'analisi che fa continuamente una Mendola, un Salvatorelli, e che fanno cioè altri uomini inturati spesso i contemporanei coevi al fascismo. Tant'è vero che il primo tentativo di opposizione di queste forze democratiche sia ancora prima delle elezioni del 24 in quella lega per i diritti elettorali, che però fu un po' di fallimento perché non riuscì ancora a organizzare e a galvanizzare queste forze democratiche antifasciste. Cosa poi che si preciserà ancora di più con l'Aventino e con l'Unione Nazionale delle Forze Liberali e Democratiche. Ora, a mio avviso, e credo sia anche questo il senso del discorso del professore, qui sta proprio la grandezza dell'opposizione democratica aventiniana. Sul piano pratico non ebbe nessun risultato, d'altra parte non so se una rivoluzione di popolo sarebbe stata possibile in quel momento storico, almeno la storiografia la mette molto in dubbio. Certo è che è una battaglia fatta nell'interno della Costituzione per la riaffermazione dei valori della Costituzione, non tanto in senso conservatore, che sottolineiamo, torniamo allo Statuto, quanto nel senso di salvaguardare quegli strumenti democratici nell'interno dei quali sarebbe stato possibile un domani, magari a lunga scadenza, un rovesciamento del fascismo, ma che pure rappresentavano l'antitesi del fascismo. E forse anche in questo senso va vista la non collaborazione dei comunisti all'Aventino. Collaborarono, mi pare, per un mese e mezzo o due, non di più, e si fecero vedere a qualcuna delle sedute. Nel senso che era ben chiaro che questa difesa della struttura costituzionale dello Stato, bene, era una difesa fatta anche nei confronti dell'alternativa della dittatura del proletariato comunista. Perciò in questo discorso veramente il comunismo non si poteva trovare, mentre si poteva trovare tutto lo schieramento liberale, socialista e cattolico. No? Un discorso anche per i cattolici fatto da Sturzo, in penso agli studi di Sturzo, quando proprio puntualizza in questo senso la funzione dell'Aventino, fatto da De Gasperi, quando puntualizza proprio il valore delle opposizioni in questo senso. E mi pare che l'aver chiaramente posto di fronte ad una Italia che ormai si avviava verso il totalitarismo fascista, l'aver posto veramente la questione in questi termini, osserviamo lo Stato costituzionale, democratico, le strutture liberali dello Stato, o prendiamo il totalitarismo, questo non sia soltanto un mezzo morale indiscusso, non è soltanto salvarsi l'anima di alcuni uomini, ma l'aver anche salvato una precisa dottrina politica, una prassi politica, cioè aver fatto non soltanto un'opera di salvazione personale, ma di salvazione quasi, e di valori da tramandarsi al futuro. Un'ultima osservazione con il punto. È stato citato Gobetti. Ora, mi pare che dal punto di vista del pensiero, Gobetti sia vicinissimo a una mendola, però non mi pare vicino nella lotta a combattersi nei confronti del fascismo. Gobetti vedeva una lotta al fascismo non tanto nell'interno della prassi costituzionale, ma vedeva una lotta al fascismo proprio in senso di frattura rivoluzionaria, e quindi interveniva anche il diverso giudizio che una mente o un Gobetti dava dal suo risorgimento e del rapporto di risorgimento fascismo. Perciò un Gobetti, forse come Trassi, era molto più vicino a una parte comunista, come del resto furono uomini di estrazione liberale, democratica, gobettiana, non so, i Rosselli penso, poi confluì nel gruppo di Giustizia e Libertà, dove si vedeva una frattura e una possibilità di agire direttamente contro il fascismo al di fuori di questa fascia di opposizione esclusivamente di carattere costituzionale. Sì, grazie. Io direi tutti questi due interventi del professore Corvini, della professoressa Garlano, sono state più indicazioni del discorso che ho fatto io in questa sede che dire domande, così sono totalmente d'accordo con questo che ha detto lei e direi soltanto che diciamo la questione dell'Aventino e di quel concetto del totalitarismo è un po', diciamo, questo termine del totalitario è un po' il termine chiave dell'Aventino. E perciò direi anche questa indagine concettuale da certi luci sul comportamento dell'Aventino, e a me pare molto notevole che quelli primi mesi dopo l'assassinio di Matteotti, questa parola compare. Anche quando l'Aventino ha combattuto il fascismo, diciamo, con tutto questa intransigenza, in quel momento non ha usato quel nuovo concetto che si stava formando, ma ha combattuto sotto il segno della legalità e del ritorno al concetto costituzionale. Vorrei leggere, forse questa sarebbe una integrazione anche interessante, un parte del discorso che Mussolini, in quell'ultimo tentativo di riguadagnare la fiducia e un certo compiacenza dell'opposizione liberale, e quel discorso che Mussolini ha fatto al Senato, non so, mi pare, il 5 dicembre del 24, diciamo tre settimane prima di questo concorso, di questo discorso alla Camera. È importante che al Senato Mussolini ha parlato sempre molto più, diciamo, molto più mite, molto più conciliante che alla Camera. È importante che quel discorso del bivacco non è stato un discorso al Senato, ma è un discorso alla Camera. E Mussolini ha detto in quel discorso: quando si dice, si scrive e si proclama che tra fascismo, tra governo fascista e tutto il resto dell'Aventino e delle opposizioni si è creato un solco incolmabile, allora manca uno dei termini del confronto, manca uno degli elementi della pacificazione. Se carità di patria sorreggesse costoro, io penso che essi dovrebbero venire incontro al fascismo. Infatti, in applicazione di una legge fisica, voi potete influire sul fascismo stando vicino o dentro al fascismo, correggendolo. Ma se invece martellate il fascismo dall'esterno, voi indurrete le molecole di questo organismo a serrarsi insieme, ad adottare la tattica intransigente, estremista anche se volete, perché questa è una ragione viva di conservazione. Ora, si potrebbe, questo discorso che fa Mussolini potrebbe indurre a pensare che sia un elemento di quel processo di confronto totale che ha creato, diciamo, creato il fascismo, ma direi se si vede che il fascismo dall'inizio, e questo direi è indiscusso, dall'avvento al potere, dall'ottobre 22 in poi, ha sempre avuto l'intenzione di avere tutto il potere a tutto il fascismo. Dopo tutto, direi il risultato non poteva essere diverso da quello che poi è divenuto, anche se i compromessi di fondo non hanno lasciato posto a questo sistema totalitario, veramente totalitario, che il fascismo estremista voleva creare. Prima di chiudere, prego. Adesso faccio forse una domanda che è leggermente o forse anche totalmente dall'introduzione del professor Peters. Il professor Grilli ha parlato in un convegno del fascismo come modello, cioè del fascismo italiano come modello per tutti i fascismi che si sono installati nel mondo, negli altri paesi. Ora io rilevo quello che mi appare una contraddizione, o diciamo così, di fondo, nel senso che il fascismo usa come emblema il fascio. Il fascio è un simbolo federalista, non è un simbolo fascista, cioè vorrei contrapporre il termine fascismo al termine nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Nel termine nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei noi abbiamo quella sintesi di socialismo e nazionalismo storicamente, direi quasi, citando una frase, non mi ricordo, di Manzoni, la sintesi di due secoli, cioè del secolo XIX come secolo del nazionalismo e del secolo XX come secolo del socialismo. Dunque, mentre noi abbiamo nella Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, cioè un partito di lavoratori, coscientemente preso come tale, non più, più esatta definizione del fascismo di quanto non sia, per esempio, il simbolo fascista del fascio, che più che essere un simbolo di una ideologia, cioè di una ideologia totalitaria, se vogliamo, è il simbolo di un'altra ideologia, cioè del fascismo, del federalismo, che in sé può benissimo e generalmente è democratico. Scusa, mi accodo rapidamente perché così poi chiudiamo. Il suo intervento tocca un tema che è rimasto fuori oggi e che la prossima volta affronteremo, cioè che già questa mattina era nell'aria, cioè la componente cosiddetta operaia, cosiddetta socialista del movimento nazionale socialista. Lei ha fatto una questione in termini semantici, eccetera, cioè il problema è quanto ha giocato quel famoso sentimento anticapitalista nella nascita del nazionalsocialismo, da non confondere col socialismo, perché un conto è l'anticapitalismo, un conto è il socialismo. Ora, anche tutta la sinistra strasseriana giocava più sulla componente anticapitalista, che poi è antiliberale, più che non in senso positivamente socialista. Quindi questo è un punto sul quale casomai chiederei una sua precisazione, anche con qualche accenno per questa mattina, insomma, fino a che punto, ecco perché chiedevo già stamattina, fino a che punto i due estremismi avevano queste componenti almeno ideologiche anticapitaliste, sia che avessero la formula socialista sia che non ce l'avessero, cioè fino a che punto l'anticapitalismo era una pura etichetta in quanto antiliberale ma anche anticapitalista, fino a che punto invece c'era una componente reale, socialisteggiante, o perlomeno velleitaria. Poi un'altra precisazione, giustamente evocata dal professor Cosimo. L'89, volevo fare un'osservazione. Mi chiedo se il concetto di dittatura democratica di tipo leniniano, lungi dall'essere una negazione dell'89, voleva essere una ripresa del giacobinismo che è passata attraverso la comune del 70. Quindi ha un'altra storia. Casomai allora è il discorso rousseauiano, che nel discorso di Rousseau c'è già una componente totalitaria, ma che è ben biforcata da questa. Perché Lenin, che dopo cosa sia successo con Stalin, il discorso, ma concettualmente la dittatura proletaria non nasce negando l'89, ma limite volendolo portare alle sue estreme conseguenze attraverso il 70 della comune, eccetera, eccetera. Ripeto sempre in termini concettuali, cioè ecco perché i due termini. Sì, io non ho capito la sua domanda di quel primo nome che lei ha scritto. Lenin. Ah sì. Al professor Lenin. Direi è molto difficile di trarre da un simbolo politico fatto conseguenze e. No, io questa non è esemplificazione. Sì, no? Sì. La domanda metteva subito a dire. Non sull'uso, ma sul fondo. Sì, ma direi che i simboli politici qualche volta sono espressione, diciamo, di certi spinti fondamentali, qualche volta sono anche più accentuali, di caso. Per esempio, se lei prende per esempio quella denominazione del Partito Cattolico Tedesco, il centro, vuol dire soltanto che si è seduto nel centro del Parlamento, così dice quasi niente. Potrebbe essere, poi si è veduto che ha avuto anche in molte occasioni, diciamo, il centro tra destra e sinistra, è stato un partito, diciamo, una Volkspartei, ma la stessa cosa si potrebbe dire anche per il fascismo, perché quel fascio è stato simbolo, diciamo, fino alla prima guerra mondiale, di movimenti di sinistra. È stato un segno del garibaldinismo. Se lei vede per esempio quel monumento a Garibaldi sul simbolo massonico, forse anche simbolo massonico, quello non so, si doveva indagare, diciamo, una herrschaft symbolica, una scienza simbolica dei segni del potere, dovrebbe indagare sulla nascita di quel simbolo. Ma fino al 14, dove Mussolini fonda i fasci rivoluzionari di azione interventista, questo è un simbolo della sinistra in Italia. Si pensi agli fasci rivoluzionari della Lumigiana, della Sicilia. Certamente. E durante la guerra diventa un concetto di destra, perché c'era quel fascio di difesa nazionale nel Parlamento. Nel 18? No, no, nel Parlamento italiano. Anche nel 18 il Parlamento. E poi con gli stessi deputati cattolici. Era presidente in Conti. Del fascio nazionale italiano il Parlamento. Ah sì, quello non sta bene. No, se lei vede per esempio nelle lettere di Turati che lui scrive alla sua compagna di vita Anna Kuleshov del 18-19, in quel carteggio parla dei fascisti, ma i fascisti non sono appartenenti al movimento di Mussolini, ma i fascisti sono gli uomini politici che appartengono al fascio di difesa parlamentare, cioè nazionalisti, liberali di destra e così via. Fascisti fino alla metà del 19, anche fino alla fine del 19, erano uomini di destra appartenenti a quel fascio di difesa nazionale. Così direi, certamente il nazionalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei, il partito dei lavoratori, voleva dire espressamente, già dalla nominazione, certi contenuti. Nel fascio quel contenuto non c'è, così è molto difficile di trarre qualche ragionamento da questo fascio. La componente socialista, anticapitalista nei due movimenti si è discusso anche molto su quel problema in quel dibattito su De Felice, sull'intervista sul fascismo. Certamente è stato nel fascismo quella componente anarchica, sindicalista, anche socialista, come Mussolini stesso, ma come anche abbastanza una grande parte dei quadri della elite politica del fascismo è venuto da sinistra, e quel fatto per il nazionalsocialismo non è così marcato. Diciamo, quel cambiamento da sinistra a destra c'è anche, ma è più marginale che nel fascismo. Ma d'altra parte direi che se si fa una indagine, per esempio, sulla base sociale dei due partiti, sembra che nel partito nazista la parte socialista è stata più forte che nel partito fascista. Nel partito fascista c'è solo quell'indagine della fine del 21, della struttura partitica del Partito Nazionale Fascista al momento della sua fondazione, nel novembre 21, e qui il momento dei lavoratori è abbastanza grosso, ma è quel parte forzata dei lavoratori, dei braccianti, dei lavoratori dell'agricoltura. Invece e poi si è visto che anche nel Partito Nazionale Fascista, nel 22 e 23, ci sono certi frangenti per esempio, lavoratori del mare o lavoratori del tessili, più facilmente influenzabili dai datori di lavoro, non così compatto nella sua coscienza sociale e politica, come per esempio i metalmeccanici, che fino al 25-26 era compattamente antifascisti. E la stessa cosa è giusto anche in grande parte per il Partito Nazionale Socialista in Germania, dove recentemente ci sono stati studi molto approfonditi sulla Mitgliederkarte, sul schedario centrale dei membri, che finora è conservato a Berlino, nel Berlin Document Center, e è ora accessibile ai studiosi. E c'è un storico canadese che si chiama Carter, che ha fatto diversi saggi su questo schedario, e lui ha potuto indagare e fare plausibile che il Partito Nazionale Socialista ha avuto, diciamo, 25, forse anche 30% dei veri lavoratori anche come membri del partito, che è una percentuale abbastanza alta, più alta che quello che si pensava finora. Così anche, diciamo, quel discorso di fascismo, totalitarismo di sinistra e nazismo come totalitarismo di destra, almeno per quanto riguarda la base sociale del movimento, non è molto sostanziale, diciamo. Ah, mi scusi, mi sono dimenticato la sua ultima domanda, quella dei principi di 89 e della dittatura del proletariato. Certamente c'è tutta una grossa ricerca, come per esempio i lavori dello storico Thelman, che ha tentato di indagare su queste origini del totalitarismo bolscevista, dicendo che, insomma, quel totalitarismo è venuto dalla rivoluzione francese, e quel giacobinismo è l'origine e del totalitarismo di sinistra e di quello di destra. E quello è già, diciamo, il punto di approccio anche di De Felice, quando lui dice ci sono certe sfumature nel fascismo, nel primo fascismo, fascismo come movimento, che lasciano intravedere certi connessi tra rivoluzione francese rivoluzione francese e questo primo fascismo, poi violentemente attaccato dai, diciamo, dai suoi oppositori. Ringraziamo calorosamente il professor Petersen e speriamo di averlo qua un'altra volta presto. Speriamo. Chi è questo cazzo? Scusami. No, ci sono di Mickey Bastosi, Gattro, Ongis, che sono tutti ci stanno in seconda edizione. La cassa è una cosa di cui fa sai che sia un po' di tempo, che si sa che sia un po' di tempo, che si sa che sia un po' di tempo, che si sa che sia un po' di tempo, che si sa che sia un po' di Wann? Ich glaube, mein Ja, ich habe das Weiche, ich verstehe die Wunde. Meinst du, das war eine einzige Untersuchung? Ich meine, Untersuchung, eine einzige Statistik, die Aussagen, globale Aussagen über die Aufteilung der einzelnen sozialen Schichten innerhalb der Mitgliederschaft des PNS. Und das ist eben diese Parteiuntersuchung, die außerdem in ihren Grundlagen sehr unzuverlässig ist, über deren Methoden man die ist vom November 1921. Augenblick, als die Partei gegründet wurde. Also andere kenne ich nicht. Ja, nein, das ist wahrscheinlich keine Kreise. Wahrscheinlich, das ist ein großes Manko.